in primo piano. Buona giornata a tutti, cominciamo dal Corriere della Sera, ampio spazio alla politica perché il Corriere della Sera oggi ospita un colloquio con il Premier Letta. Letta, basta soldi ai partiti, colloquio appunto con il Premier che dice non torneremo alle urne con il Porcellum o con una sua brutta copia, i cittadini potranno destinare l'uno per mille ai partiti. Spazio anche a quanto accaduto naturalmente in Afghanistan. Attacco dei talebani, ferita gravemente una funzionaria italiana, ricorda il Corriere della Sera. In prima pagina c'è poi l'appello del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, non fate morire l'Aquila, questo il titolo, lettera appello del sindaco che dice finiti i fondi per la ricostruzione. Vi segnalo per quanto riguarda il Corriere della Sera, oltre al colloquio con il Premier Letta, anche l'intervista a pagina 5 con il ministro Giovannini, contratti a termine e apprendisti, ecco il mio piano per i giovani, Giovannini, decreto a fine giugno, pensioni, revisione dopo l'estate. Ed infine, sempre dal Corriere della Sera, a pagina 19 una notizia che poi trovate anche su altri quotidiani, un'enciclica a quattro mani, Bergoglio e il testo sulla fede, il Papa completa il lavoro di Benedetto XVI, quindi presto arriverà la prima enciclica di Papa Francesco sulla fede. In realtà Papa Francesco completerà il testo già messo a punto da Ratzinger. Passiamo alla Repubblica, soldi ai partiti, questa è l'apertura, stop entro luglio, Letta, altrimenti farò un decreto, Roma alle urne con le piazze vuote. E poi a centro pagina la drammatica fotografia di quanto accaduto in Afghanistan, dell'attentato che ha coinvolto anche un'italiana, Kabul, attacco talebano all'ONU, gravissima funzionaria italiana. Taglio basso, una lettera di un ragazzo gay, Davide Tancredi, che scrive: io gay a 17 anni chiedo solo di esistere. Una lettera che poi trovate a pagina 25 della Repubblica, vi leggo solo qualche passaggio. Io sono gay, ho 17 anni e questa lettera è la mia ultima alternativa al suicidio. In una società troglodita, in un mondo che non mi accetta, sebbene io sia nato così. Il vero coraggio non è suicidarsi alla soglia degli 80 anni, ma sopravvivere all'adolescenza con un peso del genere, con la consapevolezza di non aver fatto nulla di sbagliato se non seguire i propri sentimenti senza vizi o depravazioni. Non a tutti è data la fortuna di nascere eterosessuali. E poi la lettera continua a pagina 25 della Repubblica. Vi segnalo anche per quanto riguarda Repubblica a pagina 13, quei ragazzi erano miei allievi, non li giustifico ma vanno capiti, parla lo sceicco Omar Bakri espulso dal Regno Unito perché l'Occidente discrimina i musulmani, si chiede questo dopo quanto accaduto a Londra, l'attentato di qualche giorno fa. La Stampa di Torino, partiti, stop ai soldi pubblici, questo è il titolo di apertura, c'è poi una fotografia di un ciclista che pedala faticosamente in mezzo alla neve, la Stampa ci ricorda l'inverno a maggio, giro chiuso per neve, ma il tempo mai così freddo in questo periodo, al nord pioggia, nevicate gelate sopra gli 800 metri. Un richiamo anche per il sequestro, 8 miliardi ai Riva, Ilva nel caos, oggi un CDA chiave per il futuro dell'azienda. Il Sole 24 Ore, IMU, due vie per l'acconto, questo è il titolo di apertura, rinviata la proroga degli gravi fiscali sui lavori nelle abitazioni. Taglio centrale, la notizia dell'Ilva. Ilva, sequestrati beni per 8 miliardi, esclusi dall'atto stabilimenti, impianti e macchinari. Oggi il board della società, vi ricordo oggi con il Sole 24 Ore, l'inserto plus 24. Il Messaggero di Roma naturalmente dà ampio spazio al voto nella capitale. Roma, la sfida finale è tra piazze semivuote. Questo è il dato che emerge in tanti. Hanno disertato i comizi finali, comizi con i leader, battaglia a distanza tra Berlusconi e Grillo. Taglio centrale, soldi ai partiti, intesa sullo stop. E poi a pagina 9 per il forum del Messaggero, Zanonato, piano per l'edilizia e 10 miliardi per i mutui. Avvenire, il quotidiano della CEI, il segno del terrore, questo è il titolo di apertura dedicato quindi a quanto accaduto in Afghanistan, attacco dei talebani a Kabul, grave funzionaria italiana a Londra, raffica di allarmi. E poi c'è un richiamo in prima pagina per la beatificazione che avverrà oggi a Palermo di Don Pino Puglisi, dal martirio in Sicilia a un popolo nuovo, sarà il primo martire ucciso dalla mafia. La Gazzetta dello Sport, Mazzarri, l'Inter è tua, al tecnico ex del Napoli, contratto biennale, Moratti, scelto con attenzione, con lui parleremo di mercato e non vendo la società. Il primo obiettivo è Isla, così la Gazzetta dello Sport. Il giornale, chi paga i partiti? Questo è il titolo di apertura. Berlusconi blinda Letta, ma ora serve un decreto shock. E poi una fotografia di Danilo Di Luca, già squalificato per doping, ricorda il giornale, positivo all'Epo, questo per quanto riguarda il Giro d'Italia naturalmente. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, Ilva, Rai, Montepaschi & Co., le bicamerali degli affari, questo è il titolo di apertura. Taranto, i PM sequestrano 8 miliardi ai Riva per i morti e i danni all'ambiente. Viale Mazzini, il produttore gola profonda, svela le tangenti sugli appalti. Da MPS alle banche, ai casi Penati e Tarantini, tutti i ricatti delle larghe intese. Poi trovate tutti i servizi a pagina 2, 3, 4 e 5 del Fatto Quotidiano. Noi ci fermiamo qui, un ringraziamento in regia a Paolo Corleoni, da Katia Caramelli l'augurio di una buona giornata.